126. Salsa maionese. Questa è una delle migliori salse, specialmente per condire il pesce lesso. Ponete in una ciotola due torli d'uovo crudi e freschi e dopo averli frullati alquanto, lasciate cadere sui medesimi a poco per volta e quasi a goccia, specialmente da principio, 6 o 7 cucchiaiate od anche più, se lo assorbono, d'olio d'oliva. E quindi fate loro assorbire il sugo di un limone. Se la salsa riesce bene, deve avere l'apparenza di una densa crema, ma occorre lavorarla per più di 20 minuti. Per ultimo, conditela con sale e pepe bianco a buona misura. Per essere più sicuri dell'esito, ai due rossi d'uovo crudi si usa aggiungerne un altro assodato. 127. Salsa piccante prima. Prendete 2 cucchiaiate di capperi sotto aceto, 2 acciughe e un pizzico di prezzemolo. Tritate finissimo ogni cosa insieme e ponete questo battuto in una salsiera con un'abbondante presa di pepe e molto olio. Se non riuscisse acida abbastanza, aggiungete aceto o agro di limone e servitela col pesce lesso.